attività, lavoratore, oggetto di lavoro, mezzi di lavoro. Attività, lavoratore, oggetto di lavoro, mezzi di lavoro. Terra, oggetto universale del lavoro. Distinzione delle epoche economiche e modalità di produzione. Distinzione delle epoche economiche e modalità di produzione. Processo di lavoro diventa di consumo e il denaro si trasforma circolando e non. Processo di lavoro diventa di consumo e il denaro si trasforma circolando e non. Materia prima, logorio della macchina, doppia forza lavoro, ecco il plus valore. Materia prima, logorio della macchina, doppia forza lavoro, ecco il plus valore.